dare retta a quella brava gente che va gridando la fine del mondo, lasciali parlare del loro profondo. Sono già dannati, sono morti dentro, falsi profeti di un futuro senza sorte, false le condanne e le loro lingue morte. Il mondo sta tremando sotto i colpi di un conflitto, il male lo fa l'uomo e chi cerca solo il profitto. Hanno catastrofi per incastrarti meglio e poi strozzarti il collo, il cervello, anche quello. Tu statene sereno, non seguire questi stolti, grande sarà il cielo e ci saranno pochi posti. Accuseranno l'uomo di essere perverso, l'accuseranno a torto, sarà solo un insulto. Invece di annunciare la vera apocalisse, faranno confusione e ti diranno apocalisse.